ね。 Questa è la terra dei cachi. Questo era un tricheco sui cachi. E questo era un effetto stranissimo fatto casualmente. Fatto in casa. Fatto apposta, perché nulla è casuale. Buonasera a tutti. Buonasera Bernardo, si è finalmente svegliato questo nostro... No, sto ancora dormendo. Kalos, arriva. Sto avendo anche un incubo, eccolo il mio incubo. Si chiama Kalos. È chiuso. Chiuso il banner. No, ci devo ancora andare. Ma come si chiama questa canzone qui? Gianluca DJ. Direttamente per voi, dalla terra dei cacchi. Tutto radio. Barbara Streisand al contrario. Non vedo più i cartelli della par condizio. Ma perché? Possiamo dire anche... C'è stata mai par condicio in Italia? C'è stata mai? No. Non esiste la par condicio. No. Chi vuole una birra? Ah, hai portato da bere? Sì. Allora, il birra schifosa, nostro... io scappo. Stasera DJ set di Gianluca. Non dire così, che sennò mi emoziono, è caduto dalla seggiola. Dalla set adesso. Dalla seggiola. Il set nasale, ora te lo rompo! Sì! Abbiamo qui in sottofondo. Dove hai preso questa voce così? Quale voce? 80. Questa? Questa? 80, sì. Ma non lo so, lo alla sei mandi. Sei mandi. Com'era la canzone? Non te la ricordi? No, vabbè. Ricordo. No, vabbè, sei troppo giovane. Last night DJ saved my life. Per tutti i quarantenni l'ascolto. Kalos, sei un genio! Sei. Bravo, Kalos. Ho scosso la birra. Continua a rimbombare il mio microphone. Ma perché tu quando parli dai tutto il meglio della tua libido sessuale? Ha una voce cavernosa, devo dire. Cavernicola. Sì, proprio una voce da corpo cavernoso. Cavernoso vulpico. Quando parla eiacula. Anche la birra. Le sue goccioline di saliva mai sia capitano... Si trasformano in goccioline di sudore. Se capitano sul buchetto di una donna, fa un figlio senza nemmeno... Che bello! Che visione astrale. Astrale. Venusiana. Vabbè, questa è una serata che si prevede una giornata di merda, ragazzi, una serata veramente. Di merda. E dai, io posso andare a casa. Andiamo tutti a casa. Speriamo che domani sia migliore. Ma io spero che domani sia domani, poi che sia migliore. Come dire, un bambino basta che nasca sano e che non vuoi di PDL, poi per il resto può fare quello che cazzo un vuole. Un bambino uè. Un bambino a norma di legge. Il nostro Bernardo non può bere la birra, perché sennò siccome la birra è vasodilatatrice, no? Questa è una cosa. Oh, io faccio danni. Se sei un bambino che non è a norma, ti fanno la multa. Birra. No, un bambino prodigio, c'è un miracolo, è nato per un miracolo, guarda proprio. Ti ferma la polizia, ti alza la maglietta, sotto c'è il codice. Sì. Gianluca Garaffa, non è omologato questo telaio. Guarda, omologato non dobbiamo lo so. Multarlo. Ma magari mi fermassero i poliziotti. No, scherzo, no. Eh? Non voglio, no, no. C'hai certo... questa visione anche delle divise che ti spogliano. Wow, Lady Gaga, io immagino che scenda Lady Gaga travestita da divisa proprio, con il manganello ovviamente. C'è chi dice che Lady Gaga si cosparga di colla e si rotoli sul pavimento e rimane appiccicata. No, io so che trova. Non è vero. E quello è il suo vestito. Si cosparge di colla e si attacca al cazzo. Pio mamma mia. Pio bono, come tutono. Come siamo tendenziosi alla comicità. Fai il tuo dovere, DJ, metti la musica. Faccio il mio dovere. Fai il tuo dovere. Ma siamo in fascia. No, ancora. Fascia divisa. Non riesco a mettere la birra. Par condicio, ma non è. Serve a dare. Par condicio di rondello. Per limita per noi. Vabbè, guardate, io il futuro. A questo punto metteresti un pezzo. A questo punto ho sbagliato, perché non volevo fare quello che ho fatto, però lo rifaccio. Ma cosa c'è di più bello della terra dei cacchi? Io penso qualunque cosa, okay. Anche un raffreddore. Che bello, ma senti questa musica come pompa, che ti dà l'idea di avere 18 anni. Senti, e vai, senti il cambio, il cambio. Il cambio, sentire il cambio, il mix proprio tra Masini. Ti ricordi ancora 40 anni fa tu com'era? Wow, 40 anni fa, ma io mi ricordo al tempo di Getsemani, altro che c'era jazz e blues tutto il giorno, altra musica di merda di oggi. Vai, ascoltiamo il prossimo brano, che è il di primo. Merda. Di merda. Viva la merda. Chissà, dopo questo, quello che ha detto, chissà cosa metterà. Chissà cosa ti metterò. Questo. Quattro parti di gioia, due di sostanza ed una piacere. Mescolare poi per bene. Severità. Amo questa ricetta, a volte la odio, è dura da bere. La dolcezza è di sapere, non finirà. Sono questi cantanti bellissimi italiani, però che ne sappiamo, non lo sappiamo, no? Il CD non corrisponde alla copertina, come spesso succede, no? L'apparenza non corrisponde alla realtà, quindi se la nostra anima è un CD, la copertina è il nostro corpo, viceversa, non lo so. Basta, non facciamo discorsi seri, altrimenti mi mandano via dalla radio come fanno dai come fanno in tutti i locali normali di Pisa, in cui mi mandano via perché parlo di cose intelligenti. Il nullificatore continua a proliferare nei locali pisani. Continua. Eccolo, è arrivato il nostro Alessio. Alessio, Madonna, non ce l'aspettavamo, non me lo sarei mai aspettato. Assolutamente. Buonasera, signor Alessio. Buonasera Alessio, come stai? Buonasera a voi. Grandissimo Alessio, il mio amante. Mi sta tornando la voglia a me, di sesso ovviamente. Vedi, appena arriva Alessio, mi viene il sesso in mente. C'è uno tsunami di ormoni che sconvolge l'imparcatura esistenziale. Sei ingrassato Alessio? Sì, perché ho mangiato pesante. E bevuto più calorie di quelle che ho consumato. Ah, interessante questo. In che lasso di tempo? Cioè, da l'ultima volta che ti ho visto? Non lo so di preciso da quando è l'ultima volta che mi hai visto. Dall'ultima saprei... proprio, direi. Non sapresti dirmi perché. L'ultima volta ma che siamo stati insieme. Un rimbombio, Gianluca. Anche io lo sento un rimbombio. Mi rimbomba. Cos'è che ti rimbomba? Allora, vediamo poi se riusciamo a mettere a posto dei dischi. Allora, per ecco, esempio, questo, ce l'ho fatta. Guarda, questo lo faccio vedere anche a casa, sulla webcam. Vedete? Sembra proprio lui, eh. Cioè questo disco sembra proprio di questa copertina. Stromba. Stromba. E infatti dentro c'è quello che era di quest'altra. Come mai Carlos si è spostato tutti i dischi? Carlos la magia. Ha delle dispercezioni viniliche. delle psi... cos'è? Ascoltiamo invece quest'altro brano di cui non so assolutamente nulla, né titolo, né autore, però è bello, niente. Però diciamo è bello. C'è sì. Qualcosa che va oltre l'etichetta, una cosa bella e ti piace, punto. Senza dire se è un brano di musica musicale o di musica non musicale, insomma. Comunque questo è altro, poi i nostri ascoltatori che non me ne frega nulla. Comunque dopo parleremo, negativo, Bernardo, parleremo con Alessio, intavoleremo. Sei partito negativo. Sono partito negativo. Un discorso filosofico sul nichilismo. Cascate il giacchetto. Sul nichilismo e sul male di vivere di Bernardo Cirillo. Grazie. A dopo. A dopo. Prima di andare, di mandarvi in onda, vi chiederei di cambiare discorso. Cambiamo discorso. Cambiamo di genere. Cambiamo discorso. Cambiamo persone. Bello, cambiamo il soggetto e non cambiamo il discorso. Che cosa accade? Cosa accade? Cosa accade se si cambia il soggetto e si lascia il discorso? Come dire, cosa accade se invece della mafia ci mettiamo lo Stato? Ah, Niente. Rimbombo ancora. Hanno tolto il cartello della par condicio. È partito subito. A parte non hai detto... Ha detto mafia. Ha detto Stato. Ho detto mafia, ho detto... E due partiti politici italiani sono quelli. No? Dire, però per la par condicio siamo anche chiesa, perché abbiamo detto mafia... Il terzo polo, la chiesa. Sì, diciamo terzo polo. Senza nulla togliere a Sant'Agostino, però, Per favore, perché poi su com'è che stai citando spesso Sant'Agostino? Lo stai rileggendo? Perché sì, perché Agostino. Sì, ma parliamo d'altro, perché si parla sempre d'altro poi in realtà, no? Quindi non si parla mai. Il famoso benaltrismo. Qual era il tema della la zanzara? Il nichilismo e il male di vivere di Bernardo Cirillo. Bernardo di Schopenhauer. Male di vivere. Schopenhauer Cirillo. Non ha un male di vivere, lui è un materialista. Un malato immaginario, un ipocondriaco. È un epicureo in realtà. Il suo male di vivere ha bisogno del giardino, come avevano bisogno gli epicurei. Beh, mi piace questa cosa. Vai avanti. Bernardo è cresciuto con un'idea di giardino. Giardino falso, però... Adone. Falso Adone o falsa Edone? Falso piacere, cioè inteso come piacere di per sé. Sì. Inteso come piacere. Però non stiamo a Marzullo, per favore. Filosofia, bisogno comunque di Marzullo. Moderi un po', Gianluca. La filosofia ha bisogno di qualcuno di che cazzi, se c'è qualcuno Marzi, a casa. Stasera c'è Sgarbi, attenzione che parlava di di bellezza, di topa. Quando la topa non c'è, i gatti si mettono a omosessualizzare. Se qualcuno all'ascolto sta vedendo Sgarbi, ci dica di cosa sta parlando. Ma basta, vado anche io in televisione, farò una trasmissione tutta mia e ti donerò una trasmissione tutta mia. Viva la fantasia. Comunque veramente Sgarbi a me personalmente non mi ha fatto uno sgarbo. Non mi piace. però è un uomo di non cultura. Lo so. A me piace come critico. È un uomo di cultura, artistico. Ma quando parla di cultura? Quando mai. Parla di quando? Parla... Prima lo facevo prima. Sul canale 5, tornavo da scuola e c'era Vittorio Sgarbo. Sì, Sgarbi quotidiani. Parlava di col tuo mondo scrofalo. Bada bim, bada bim, bada bim. Io non lo so, non ho questa cultura, cioè non me ne intendo di storia dell'arte, queste cose, però penso che ne sappia parlare. Queste cose qui. Sì, no, quello sì, quando parla d'arte sa parlare. Quando parla d'arte. E quando si mette a fare politica, come le veline diventano politiche, lui da velino diventa politico, ma il discorso suo non è quello, il discorso è un altro. Quindi è come se io mi mettessi a fare il DJ di Punto in Bianco. Sono come quei personaggi di Ferrari, dicono è intelligente. Tutti dicono Ferrara è intelligente, però dice delle stronzate, cioè perché? Allora, perché ha più grasso degli altri, fa più presenza scenica, mica. Infatti sto tentando di diventare un Giuliano Ferrara per sapere se. Cioè, se fosse un anoressico non avrebbe tutto questo successo. Giuliano Ferrara ha dichiarato, ho ascoltato la trasmissione alla radio, dove ha dichiarato che la televisione non influenza le opinioni. Invece ha detto una cosa. Ha fatto una dichiarazione così molto netta. Ha detto: in fondo la televisione non influenza le opinioni. Invece, io l'ho sentito, ho detto una cosa. Chissà i pubblicitari come mai investono tutti questi soldi nelle pubblicità se non influenzassero. No, ma poi la cosa più geniale che ha detto Ferrara, ha detto ora avete la televisione accesa sul Rai 1. Cioè, mi state vedendo, allora siete su Rai 1. Complimenti. Infatti, secondo me. Adesso cambiate canale, ci vediamo dopo. Dai, ragazzi, ora vi faccio ascoltare l'unico gruppo di cui so il nome, il cognome e il titolo del brano, che non lo dirò perché è Giving Away the Bride. Che non so cosa. Sono diventato un anglofono, cioè in senso mi asciugo i capelli e fa. Vabbè, un anglofono. Un omofobo anglofono. Un omofobo anglofono. Vuol dire gettando sull'omofobia, via il matrimonio. Non so se hai visto che sull'omofobia c'è stata una diatriba in Parlamento e il ministro Carfagna ha detto che voterà a favore della legge proposta dalla Ma tanto non gliela daremo mai alla Carfagna, anche se fa tanto la gay friendly. Vabbè. Dai, ascoltiamo i Califon. Facciamo di meno i Califon di questo e The Unwanted. We'll be right back. da quant'è che non ti fai guardare questo sangue marcio? Comunque il cane più fortunato è quello che si mangia la fava, mamma mia, cioè sì. No, ritorniamo al discorso di Giuliano Ferrara. Giuliano Pisapia, ora devi dire anche Moratti. No. Lì c'è ancora il ballottaggio, quindi non possiamo dire niente. Chiaccascine invece le elezioni sono finite, quindi... Ma chi ha vinto? Ha vinto il candidato del PD. Ah, bene, viva sta la vittoria. Io rivendico il fatto di essere intervenuto poi alla riunione della Lega che era davanti al bar. Ah, sei intervenuto a un comizio cittadino, sì, popolare pieno di polizia. Ma perché a Cascina c'è la Lega? Ma c'era la polizia in tenuta antisommossa. C'era cascina piena. Ho incontrato anche il nostro qui con cui lui però se ne è scappato perché aveva paura che intervenissi. Poi no, c'era un appuntamento. Poi avevo conosciuto un personaggio. Quando ti ha visto si è defilato. Un personaggio alcolizzato che mi aveva intimorito anche me. Io l'avevo un po' stimolato a intervenire. Insomma, questo voleva fare la rivoluzione. Cosa hai detto adesso a questo intervento? Allora, siccome la candidata, diciamo, non so, che poi è diventata assessora, qualcosa del genere. No, assessora no, è diventata, cioè, nel comune cosa ci una sono volta io? È diventata consiglieri. Insomma, è entrata, ha preso un posto lì nel comune, un posto consigliere, con una ragazza di 24 anni, giovanissima. Facciamo migliori auguri, anche se leghista. E niente, disse che c'erano stati tre furti a Cascina e per questa cosa qui volevano chiamare poi il ministro Maroni per chiedere l'intervento dell'esercito a Cascina. E Maroni ha risposto: oh, ma che du Maroni! E poi, cioè, quando avevano finito le loro cose, fece una domanda: è solo propaganda? Oppure, cioè, se aumentano questi furti, chiameremo anche i Marines? C'è anche vicino, a Pisa, basta. Vabbè, ma se non ci fossero i ricchi, non ci sarebbero i furti. Quindi togliamo i ricchi, no? Lasciamo i poveri, così non facciamo lavorare i ladri. Scusa, io è penso molto che più sia semplice. Intervenuto poi il suo ragazzo. Hai detto... Ah, hai intervenuto il suo ragazzo. No, insomma, uno era lì, uno della Lega. Poi ho capito che l'ha aiutata. Ha detto: fatti i cazzi tuoi. No, ha fatto un discorso. Non è intervenuto nel merito della questione dell'esercito, perché è una questione, cioè, assurda. Cioè. Già, l'esercito deve andare. Hanno auspicato l'esercito in Cascina. No, avevano fatto questa mossa. Hanno detto davvero. Questa mossa di propaganda. Poi. Comunque, cioè, poi il ragazzo ha risposto in un modo di propaganda, però senza dell'esercito. E alla fine volevo dire che non voto perché mi facevano passare per uno del PD, cosa che aborro. Però aborto. E ho detto solamente: meglio clandestini che leghisti. E c'era tipo un vecchiettino che dietro mi stava lì dietro le spalle e mi faceva tipo: ma mi diceva un sacco di cazzate. Io lo volevo mandare: ma vaffanculo, sai, tipo assassino, nel ti faceva film di Benigni quando... assassino. Ma vaffanculo, tipo, ma cosa fuori dalle balle dietro le spalle ti accusava? No, diceva, non capisci, non me lo diceva così, ma era lì tipo un vecchiettino, sentivi che un brusio dietro. No, a proposito di non capire un tubo, che gli idraulici, sarebbe il colmo per un idraulico non capire un tubo. Però ancora il punto. Facciamogli un applauso. Questa battuta qui merita veramente. Al cubo a casa gli saranno strappati i vestiti. Invece la ragazza cubo non capisce un cubo. Proprio per stare. L'ultima cosa, poi c'è, dopo una settimana, 10 giorni dopo, c'è stato un intervento invece di Flavio Tosi. Tausi, che è Flavio Tausi? Tausi è il socio di Christopher Lambert. Christopher Lambert, un sindaco. Christopher Lambert Columbus. Sindaco di Verona. Invece c'è il fratello di Christopher Lambert che puzza talmente tanto lo chiamano Christopher Camembert. Un applauso. Vabbè, allora ascoltiamoci un brano meglio, perché sennò ci buttiamo nell'arco. Continua a darmi. Ci buttiamo dalla torre. Allora, dopo faccio il pranky. Come si chiama? Pranky? Pranky jumping. Pranky. Mi sdraierò sulla scrivania. Sul mio pe. Fatemi la foto e la pubblicherò. Come si chiama? Planking? O pranky? No, è questa. Il fisting. Questa nuova moda che ha fatto la prima vittima in Australia. Non so se avete letto. Sì, il telegiornale ha dato la notizia stasera, è di 2 giorni fa. Che l'ho letta su internet. Puntuali. pare che ci sia questa nuova di moda dei teenagers di sdraiarsi sui limiti, di pancia, così, come si dice, supino, la fallangelo, sopra i posti più impensati. Quindi tutti caricano le foto sui social network, che so, quello sdraiato sui binari. E questo ragazzo australiano di 22 anni, se non sbaglio, ha avuto la malaugurata idea di sdraiarsi sulla balaustra del terrazzo. Purtroppo è caduto da un'altezza di 25 metri, credo, e è morto. Quindi, se volete sdraiarvi, non so, sdraiatevi da un'altra parte, proprio sulla balaustra de... No, no. Te, Alessio, dove vorresti sdraiarti e postare la tua foto? Io sdraierei volentieri su me stesso, se fosse possibile. Io mi vorrei sdraiare statua che c'è a Firenze... Sotto piazzale Michelangelo, che sono quelle due pietre, sopra quella pietra lì. Sì, sopra. Mi tu vorresti fare qualcos'altro. Io invece mi sdraierei, però non subito, dall'altra parte, sulla Torre di Pisa. Cioè, per, non lo so. Vabbè, ascoltiamo il brano ora, va? Brano, un bellissimo brano. Beppe Grillo che staccava i computer. Questo bellissimo brano. Però siamo in diretta comunque. Oh, siamo in diretta. Siamo di nuovo non in sono come Beppe Grillo. E se fossi un Plankers mi sdraierei. Dove mi posso sdraiare? Devo sdraiare. Dai, ora mi faccio la foto, faccio il Plankers. Anch'io mi sdraio sulla scrivania. Facciamolo anche noi. Sdraiamoci. E poi ci facciamo la foto e la carichiamo. Ma questo com'è? Sul no, io volevo, siccome c'è questa festa dei grillini, cosiddetti grillini, che in che senso i grillini? Mi piace di più. Dei grillini. No, scusa, ripeti Bernardo, perché a casa non hanno sentito, forse meglio sono se è meglio così. Ah, ecco. Allora, i grillini sono il popolo di Beppe Grillo, ah, pensavo il popolo del movimento dei... 5 Stelle. Come i berlusconini perché... sono il popolo di Berlusconi, i grillini sono il popolo. Gente, ma i grillini vota, però non Beppe Grillo non potrebbe, secondo le loro logiche, non potrebbe mai fare il presidente del consiglio, perché è stato condannato per alcune cose, però che ce ne frega. Ma chi? Ma di chi stiamo parlando? No, ma non parliamo di queste cavolate, parliamo di questo Plankers che consigliamo a tutti i nostri politici, tra l'altro. No, io... Allora, anche Silvio ha fatto il Plankers, sì. Si è sdraiato su una minorenne. Ah, questa non l'avete, non ha fatto ridere. No, no, vabbè, altro però, perché l'ha schiacciata poi. Ma Silvio, cioè, ma lei chi è Silvio? Cioè, Silvio? Di chi stiamo parlando? Silvio. Di Silvio Orlando? È quello Silvio psicodico Orlando, no, che... l'attore. Non mi ricordo più di chi stiamo parlando, perché no, è Silvio, quello di quel tipo psicodico che è convinto di essere il presidente del consiglio, che sta in un paese democratico, cioè, tutte queste cose qua. Ma forse qualcosa mi sovviene nella mia memoria, cioè, qualcuno che dimenticheremo presto. Praticamente. Allora, dopo ci andiamo a sdraiare, insomma. Gianluca, dopo ci andiamo a sdraiare sulla torre di Cascina. In cima, però. Ma chi ci va soprattutto in cima alla torre di Cascina, oltre ai piccioni? Ma io prima mi chiedevo, ma com'è queste mode spopolano? Come si fa a fare... Ma queste cose qui, secondo me, in modo quasi casuale, iniziano... in qualche parte del mondo, e dopodiché, grazie allo spread che c'è, diciamo. Spieghiamo cos'è lo spread. Cos'è lo spread? Bernardo, ormai io questa terminologia, cioè, grazie alla semplice divulgazione del fatto attraverso i social network, è possibile raggiungere centinaia di migliaia di persone in pochi click, in pochi attimi, e quindi magari da un'idea così un po' bizzarra, stravagante, fuori di testa, diventa una moda. Chiedimi cosa ne pensi dei plant. Che cazzo ce ne frega a noi di cosa ne pensi? Dai, dimmelo, su. Via. Che cosa ne pensa lei, signor Gianluca Gararappa, esperto in parapsicologia animale, dei plunkers? Ma secondo me i plunkers sono i rappresentanti di quel pensiero delesiano dei bordi. Vero. Comunque a me i Plunkers mi sono sempre piaciuti, soprattutto con quella canzone che faceva Only You Can Make. Ma poi i Plunkers non hanno problemi di planta. Erano i Plunkers, ne capisci mai, non ci giurerei. Però un altro fenomeno, tipo, sono ignorante. Davanti a Buckingham Palace, ecco. Buckingham, ho sentito, hanno fatto... Però non è una cosa anche, diversa. Anche Sandro Bondi, si è, ha fatto il Plunkets ai piedi di Silvio. No, quello ha fatto coming out. Ha detto io sono un Bondo. Allora, ascoltiamo gli ultimi minuti di questo bellissimo brano di Jimmy Tanner. E voi dove vorreste fare il vostro Plunkets? Non sulla ringhiera come quel matto. No, ce lo direte dopo al 000. Telefonateci al numero, eccolo là, aspetta che ve lo dico. 050 71 00 71. Oppure inviate un vostro SMS al 36 63 40 6020. O scriveteci, ripeto, sulla chat line 36 63 40 6020. Se ce li hai gratuiti, mandalo. Abbiamo il telefono? No, c'è nessuno al telefono. Abbiamo un ascoltatore, nessuno. Becchi. Male. Chi è questo Becchi che sta male? Ma non bisogna stare male in questo mondo. In questo mondo bisogna stare bene. Poi, insomma, questo c'è chi sta bene e chi sta male. E chi sta come gli pare. C'è una canzone. Ma, diciamo che innanzitutto questo mondo non esiste, perché no, volevo dire che mi dispiace di morire. Ma allora, se volete contento. Suicidarvi, vi consiglio di acquistare tutte le puntate di Report e vedervele in un giorno solo. Dopodiché acquisterete una tale sfiducia nel prossimo e nella vostra vita e nella vostra esistenza che non potete far altro che infilarvi nel forno a microonde e accendere. Fate plunkers lì dentro. Sì. Fate il plunkers nel forno. A proposito di musica, io voglio ascoltare questo Avete brano. Visto, no, visto che ho citato Report, l'ultima puntata, dove è possibile andare in un ospedale e trovare un primario in cardiochirurgia che in realtà è laureato in giurisprudenza. Questo infatti anche io... Interessante questa cosa, no? Infatti scusi, io dottore, mi fa male il cuore. Si fa presto a dire ti fa male. Vediamo un attimo... Da che pulpito viene? Magari sentiamo le parti, capito? Ti fa lauree. Facciamo, chiama subito un testimone, cioè, vediamo se è vero che ti fa male, perché no, non mi fa male più. Ma il testimone oculare no, perché l'oculista il testimone... chiama il giudice, dopo fanno il processo. Lei ha detto che si sente male? No, veramente 2 anni di ospedale. Posso chiedere, ma il testimone oculare va dall'oculista? Il testimone oculare è dall'oculista, giustamente. Vabbè, dopo questa ennesima cazzata fibonacciana... No, non era una cazzata questa, purtroppo. È vero. Qual è la tua? No, la mia, dico, la mia. Ci stanno telefonando. Rispondiamo. Ora mettiamo un po' di musica e poi risponderemo. Ma ho visto la lucina rossa lì. Ok, mille cazzate, dice. Becchi, vienici a trovare. Tanto sappiamo che stai qui vicino, invece ci sta sul divano. Andiamo ad aprire la porta, intanto ci ascoltiamo questi. Barcanian, di stare sul divano beatbox, con le mutande strappate. Vieni, ma leggi il terzo allora, terzo Barker Beatbox, questo disco che avremmo pagato disco, se non un euro a una bancarella di abusivi. Che numero dobbiamo mettere? Il 3. Numero 3, Blue Eyed Black Boy. Wow. 3 minuti e 22 d'ora. Quindi non vi allontanate troppo. Un arcano discografico. Carlo sta facendo i gargarismi. Gargaro. Ci svela un arcano. Ah, è vero, è Iggy Pop. Ma com'è un Iggy Pop? Io l'ascolterei volentieri questa canzone che... Okay, allora che è messa come traccia fantasma, forse. No, è un CD in una copertina. Come si diceva prima, l'essenza non corrisponde spesso all'apparenza. In questo caso l'essenza, l'essenziale, supera... è invisibile. Ora agli occhi. Ascolteremo una canzone stupenda in cui si parla di una camera di albergo in cui due persone decidono di fare del sesso un po' particolare. Lui vuole essere il suo cane. E come si intitola il brano? I wanna be your dog. Ok, ascoltiamolo. Vuole essere il tuo fottutissimo cane. Non wow, c'è fottutissimo. Cerchiamo dei master per il nostro Alessio. Chiamate al numero che sapete. No fun for my babe, no fun. No fun for my babe, no fun. Questo è No Fun, scusate, no, è No Fun, fun è sempre degli Stooges, però è No Fun. No fun to hang around. For another day. No fun for my babe. No fun. No fun for my babe. No fun. No fun to be alone. Walking by myself, no fun to be alone, but in love with nobody else. Well, maybe I go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. For no fun to be alone. For no fun to be alone. Hang on, don't let me go. No fun to be alone. I said to be alone. I said to be alone. No fun. Well, I said, well, I said, come on, Ross. I said, come on, Ryan. I said, come on, Ryan, let me. I said, come on, Ryan, let me tell him. Let me tell him why. Tell him why. Tell him why. Tell him why. Tell him why. Tell him why I feel. I said, come on, let me tell him. Tell him how I feel. Yeah. Yeah. diretta. Questo clima un po' così 60. Io non ho mai capito questo tuo intercalare, o anzi questo pregalare. È arrivato anche Marco Martomini, che ha già nostalgia del suo live. E lì non vuole parlare. Non vuole parlare, sì. Sta ragionando su. Si è spostato, ha paura anche di essere ripreso, perché le immagini potrebbero essere usate anche per dei videomontaggi un po' così. Diciamo ufficiali. Non. Io volevo chiedere a tutti i nostri ascoltatori. A tutti? Ce ne abbiamo due. A tutte le nostre ascoltatrici. Non ce n'è neanche una stasera, solo uomini all'ascolto stasera. Ma perché? Serata gay questa. Ma perché? Ma soprattutto perché? No, perché un ah, non ci si sente puoi più, appropriarti non ci si sente più, c'è scritto. Di cose della radio, altrimenti dovremmo pagarle noi, esattamente Kalos, ecco, che non lavora, sempre. Non studia. Questo povero quando ragazzo. Quando va alla messa a chiedere l'elemosina non gli danno neanche, chi gli dà un bottone, chi gli dà un sasso. Chi mi dà un calcio. Ma in che senso non si sente la radio o lo streaming? Il video capiamo. È bloccato. Il video è bloccato. Sappiate che ci censurano. I mezzi di Punto Radio purtroppo alcune volte anche la NASA... Cesira ci censura. Tanto è inutile che ci sentite, tanto non parliamo. Ragazzi, sono le 22.52 e siamo al termine di una serata che non 22, ha avuto 52, un inizio 22. Reale. Non ha quindi... avuto né cazzo né coda. Né cazzo né cane né cazzo. Allora, facciamo una domanda. Il nostro Bernardo ci ha proposto un concorso molto particolare, concorso. No? Sì, mi piace l'orologio di Marco, bello però. Un gay ride. Gay ride, no, perché esatto, più che un gay pride. Sembra facciamo... la sveglia che portavano alle tribù. Visto ma ascolta, ma dove siamo? Quindi. Stiamo parlando di gay, di omosessualità, o stiamo parlando con Marco? Con chi non stiamo... so se anche lui vuole essere incluso ma in questa... Ma di chi stai parlando? Ma smetti, no, lui è etero. Allora, ve lo dico solamente una cosa, se... Dio non avesse voluto l'omosessualità, perché ha avvicinato... Perché ha creato Homo... Gianluca? Homo con l'H e homo, cioè il fatto che la lingua derivi da Dio, homo e homo, è una cosa del ma tutto chi... naturale. Ma no! Oh. No, veramente, se Dio non avesse voluto gli omosessuali... Oh, ci sarebbe invece dell'orgoglio gay, la tracotanza gay, era peggio così. Peggio. Vogliamo il nostro paradiso, invece ora ce l'hanno il paradiso. No, vabbè. Ma mettiamo che i gay, cioè tipo si riproducessero solamente i gay, mettiamo o per modo? Una cosa genetica arrivano ecco. A riprodursi solamente i gay o le lesbiche. No, supponiamo in un mondo futuro dove il passato... i figli potranno essere creati anche con dei macchinari. Immaginiamo un mondo che futuro. Simulano l'essere umano. Una comunità di omosessuali si ritrova per progredire sviluppando i figli con questo macchinario. Però, e lì nascerà una guerra. Ma il macchinario è molto sexy, è tipo come Pamela Anderson, il macchinario. No, è come una lavatrice. No, io bello, allora preferisco. Così già con degli elettrodomestici. Col programmatore inserisci Pamela Anderson. Ponimela Anderson. Anderson Ponimela. Prendi la prima Pamela. Ah, ma questa è brutta. No. Ah, coperto stendiamo un velo pietoso. Il video è bloccato. Bisogna togliere. Eppure non funzionante. Bisogna togliere. Non siamo più. No, lui non vuole essere ripreso. Ho capito, vuole essere... però noi sì, noi lasciamo, vogliamo essere ripresi. Vuole essere ripreso. Già non va. Ma vuole essere ripreso. Ma non va, il video è bloccato. Il video è bloccato, quindi va bene, allora se l'hai coperto nessuno se n'è accorto. No, non c'è nulla, Marco. Guarda, no, non c'è assolutamente quindi... nulla. C'è soltanto il nulla che si impossessa delle nostre allora, vite. Io direi che possiamo andare persona, a concludere la trasmissione. Sì, io vi faccio ascoltare però... questo brano. Questa trasmissione veramente stasera è schifosa, devo dire. Una delle peggiori. Schifosa come al solito. Una delle peggiori trasmissioni degli ultimi 18 anni. Della radiofonia italiana. Togli quel fazzoletto perché voglio che mi si riprenda la calvizie. Perché la mia calvizie è come la fama, mi precede sempre. Is it good Oltre concertino, quindi caro Marco, quando sei pronto vieni pure, diccelo, no, non mercoledì prossimo, però magari quello dopo. Però sappiate che ho fissato anche Gianluca, se tutto va bene, l'8 di giugno con i Working Vibes, Papa Massi, grande. E tutta la sua crew, Cisco. Grande Cisco, come Cisco? Cisco all'americana. Ma cos'è? Cisco. Ma cos'è? Ma sei? Vuoi salutare? Sì, vieni Marco, saluta. Chi vuoi salutare? Non lo so. C'è qualcuno che volessi salutare? Salutano. Tutti che... quelli che sono all'ascolto. Salutiamo tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene? Ciao, sì. Abbastanza. Ecco. Gianluca, io direi che siamo arrivati... A parte la lombagine, l'artrite, la cervicale... A parte il PDL! La febbrina... Ti dobbiamo sopprimere perché stai soffrendo troppo oppure resisti? Qualcos'altro. La nebbia di tutti i colli. Allora, io direi che potremmo... La lombagine l'ho già avuta io. Dicevo, la lombagine in CD-ROM da domani in tutte le Ci sono state le elezioni nella lombagine. A parte queste c'erano le elezioni nella lombagine. Vabbè ragazzi, io direi, guarda, sono le 22:59, oh, ce la facevo più, sono le 11, meno male. Buonanotte a tutti, ciao, ci sentiamo la prossima volta. Buonanotte, vi lascio un abbraccio forte dalla terra di cachi a tutti voi che siete all'ascolto, alle vostre mogli e alle vostre fidanzate, un bacio speciale. Ciao. Ciao a tutti, buonanotte, vi voglio Marco. Bene, ciao. Ciao Marco. Male, ciao. Abbastanza male, anzi. Ciao. Ciao.